Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Benvenuto da Stefano Zenni, grazie di essere qui questa domenica mattina quasi primaverile. Oggi la nostra lezione tocca un tema diverso da quella dalle precedenti. L'idea di questa lezione di Gese è di affrontare le nostre tematiche da punti di vista differenti. Abbiamo parlato di un disco importante, Kind of Blue. Vi chiedo scusa, ho un po' di bronchite. Abbiamo lavorato su altri argomenti, ma dicevo, tra le cose, tra gli scopi di questi incontri, c'è quello di aiutare il pubblico a entrare più in profondità nella musica, cercare di cogliere alcuni aspetti che potrebbero sembrare tecnici, in realtà fanno parte della capacità comunicativa globale della musica. L'importante, come dire, è riuscire a imparare gradualmente a cogliere i dettagli, a scendere in profondità per poi avere una visione più ricca delle cose. La lezione di oggi è orientata in questo senso. È dedicata al sax tenore, ai due maestri del sax tenore, Coleman Hawkins e Lester Young. Vi dico subito, per sgombrare il campo da aspettative, non racconteremo la vita di Coleman Hawkins e Lester Young, se non ovviamente occasionalmente quando sarà necessario richiamare degli aspetti biografici, che comunque faremo, perché la mia intenzione è piuttosto accompagnarvi, andare insieme all'interno della musica di questi due maestri per capire cos'è il sax tenore, come può suonare, che storia ha questo strumento e come sono poi arrivati i grandi altri sax tenori dopo Hawkins e Lester Young, come per esempio Sonny Rollins, Dexter Gordon, John Coltrane, e capire il ruolo che hanno avuto questi due maestri nell'evoluzione dello strumento. Uno strumento che io adesso non faccio la storia del sax tenore, però vi inviterei, se andate anche in una biblioteca, a consultare una qualsiasi storia dello strumento del sassofono. C'è una cosa veramente strana dove si vede la miseria un po' eurocentrica della nostra musicologia, nostra dico occidentale, non necessariamente italiana. Se andate sui grandi, le grandi enciclopedie come il Deum, come il Grove, trovate delle lunghe voci sulla storia del sassofono che vi raccontano di Adolf Sax, di come questo artigiano nel liutaio belga ha inventato lo strumento in tutte le sue taglie, dal sopranino fino al basso, al contrabbasso, alla metà dell'Ottocento, come questo strumento si è diffuso soprattutto nell'ambito bandistico, come lo strumento è arrivato negli Stati Uniti sia attraverso le bande parigine sia attraverso quelle messicane, quindi anche da sud. Trovate una lunga storia anche della letteratura episodica, della letteratura abbastanza ridotta per questo strumento nel campo della musica classica, soprattutto dalla fine dell'Ottocento, primi anni 20, primi Novecento in poi, una letteratura che tra l'altro ha diverse pagine anche significative, ma che comunque è estremamente ridotta. E poi, dopo tutta questa lunga introduzione, trovate in genere 10 righe in cui si dice: il sassofono è molto importante anche per il jazz, e per esempio ci sono Coleman Hawkins, Lester Young, John Coltrane, eccetera, eccetera. Balle. Il sassofono l'hanno inventato i jazzisti. Il linguaggio di questo strumento, non solo del sax tenore, del sax contralto, del sax baritono, non esisterebbe se non fosse per i grandi musicisti, soprattutto afroamericani, statunitensi, dei primi del Novecento. A loro andrebbe dedicata l'intera voce di enciclopedia con una nota a margine sulla musica classica per sassofono. Questa, scusate se come dire, il tono un po' rabbioso, che la domenica mattina non ci sta bene, magari dopo la partita forse sì, però è veramente un rovesciare i valori reali della storia. Solo perché stiamo parlando di una minoranza che fa musica considerata popolare, si ignora il fatto che uno strumento che oggi fa parte del nostro immaginario, che è una sua identità, prima che venisse preso in mano da Coleman Hawkins e Lester Young, non aveva alcuna identità. Il sassofono era uno strumento riempitivo da banda, un tubo che fa un suono abbastanza ottuso, e non particolarmente accattivante, però uno strumento che, come dire, consentiva per esempio di fare degli effetti di virtuosismo, perché ha una tecnica che si acquisisce per esempio suonando il clarinetto. Quindi se uno suona il clarinetto non ha enormi difficoltà a suonare il sassofono, quindi che so, una tecnica di agilità, di velocità. Poi c'è questo suono dolce che si presta sia a un certo lirismo, sia per esempio a degli effetti comici. Si possono giocare, fare degli effetti con i colpi di lingua come degli scoppietti di questo tipo qui. Ebbene, c'era un personaggio negli anni 20 che si chiamava Rudy Wideft, che è stato il maestro del sassofono popolare, diciamo così, negli anni 20. Rudy Wideft in realtà non suonava il sax tenore né il sax contralto, ma suonava, oltre al contralto, un tipo di strumento che oggi è caduto quasi completamente in disuso, che si chiama Fee Melody Sax. Era una cosa di mezzo fra il contralto e il tenore, cioè un po' più acuto di un tenore, un po' più grave di un contralto. E la forma, lo vedrete, è quella di un sax tenore piccolino. È uno strumento che ebbe una grande popolarità negli anni 20, su cui torneremo perché è importantissimo per la nostra storia, che poi è caduto in disuso e di recente ogni tanto capita di vederlo fra le mani, che so, di Anthony Braxton, che in effetti soffia in qualsiasi cosa abbia un'ancia, o anche no, oppure anche, se non vado errato, non vorrei sbagliarmi, mi sembra che anche Joe Lovano occasionalmente lo ha imbracciato. Vi faccio sentire, vi vedere un raro filmato del 1925, attenzione, sonoro, quindi è un esperimento di cinema sonoro della metà degli anni 20, in cui, non è un filmato, è un audio, in cui sentirete, ecco perché c'è anche un filmato, vi faccio sentire solo l'audio, sentirete Rudy Wideft, un pezzetto di questo pezzo, che cos'è? È un pezzo di musica leggera, anni 20, che vi fa capire qual è la percezione del sassofono prima del jazz, uno strumento d'agilità un po' comico e un po' allegrotto. Aspettate, come al solito. L'effetto risata è un classico della musica popolare degli anni 20, eh? Il sax si presta a meraviglia. Quell'effetto. Difficile quello che lui fa, salta registri. Te lo faccio sentire tutto. Chiaramente non improvvisa, vorrei fosse chiaro. Preparato. C'è un'influenza del ragtime, questo effetto percussivo anche. Thank you. C'è anche un tocco di blues alla fine, va, re, ra, ra, che è vagamente ispirato evidentemente a Gershwin. Questa è la percezione del sassofono solista. Widefter era una specie di Paganini del sassofono, diciamo un grande virtuoso della sua epoca piuttosto popolare. E come avete sentito, questi effetti comici oppure percussivi, rumoristici, un po' futuristi, no? Sono molto in linea con il gusto nella musica degli anni venti e sicuramente erano utilizzati anche da altri sassofonisti nel vaudeville, anche da quelli neri che magari suonavano con le cantanti di blues e dovevano ottenere ora degli effetti drammatici, ora degli effetti comici o comunque ottenere, diciamo, una certa varietà sonora. Ed è in questo ambiente che è cresciuto il nostro primo eroe, cioè Coleman Hawkins, nato nel 1901, morto nel 1969, una formazione musicale molto ricca, molto complessa, che tra l'altro implica inizialmente lo studio del violoncello, una conoscenza dell'armonia molto profonda. Hawkins era anche un buon pianista e una carriera da ragazzo svolta, lo vedete, è l'uomo a fianco alla cantante di blues Mamie Smith intorno ai 21 anni nel 1922. In questa foto pubblicitaria lo si vede imbracciare un sax contralto, in questo caso, che era il suo primo strumento, in quello che dobbiamo immaginarci doveva avere comunque un carattere, appunto, anche questo, diciamo, da varietà, un po' come Widefter. In realtà Hawkins, anche se in questa foto non sembra, è davvero l'inventore del sax tenore. Lo so che in storia non si dice qualcuno è l'inventore di qualcosa, perché sono sempre processi complessi. In realtà per Hawkins possiamo azzardare a dire questa cosa qui, perché Hawkins ha praticamente modellato, seppure interagendo con certi personaggi che adesso vedremo, ha modellato quasi da solo il suono, il carattere, il fraseggio, l'identità di questo strumento. Questa cosa non c'è scritta sulle enciclopedie, perché Coleman Hawkins è nero, è americano e fa del jazz, ma è lui che ha dato al sax tenore vita. Quando? Grosso modo fra il 1923 e il 1926. In quel triennio, cioè tra i suoi 22 e 25 anni, nel pieno delle sue forze, Hawkins ha l'opportunità di suonare come sassofonista nell'orchestra di Fletcher Anderson, che è un'orchestra, la più importante orchestra nera di New York. E nell'orchestra di Fletcher Anderson, qui lo vediamo in una foto della metà degli anni 20, qui non c'è in questa foto, ma nel 1900, tra il 23 e il 24, Coleman Hawkins, che è seduto lì tra i sassofoni, si trova come vicino un giovane trombettista di New Orleans che si chiama Louis Armstrong. Da Louis Armstrong Hawkins non impara a suonare il sax tenore, però impara tutta una serie di trucchi ritmici, di capacità di articolare il discorso solistico, di costruire una improvvisazione lavorando su degli elementi melodici, ritmici, di dare in altre parole una logica al discorso musicale, mentre per conto suo scopre che il sax tenore, che come vedete è uno dei tanti sax che suonava anche il clarinetto, tra l'altro, come tutti i sassofonisti di quegli anni, pian piano dà un'identità sonora, fonica, proprio al sax tenore. Se ascoltiamo i dischi, peraltro, che sono di interesse puramente storico, non artistico, di Anderson dei primi anni venti, noi sentiamo disco dopo disco Hawkins che prende delle idee ritmiche da Armstrong, che mette a punto un certo registro dello strumento e pian piano mette a fuoco un'idea di uno strumento che non aveva, ripeto, alcun suono, alcuna identità. Probabilmente il primo dei più belli assoli di Hawkins giovanili è da un pezzo che si chiama The Stampede, un arrangiamento molto complesso. Magari un giorno, se l'auditorium non mi proibisce più di mettere piede in questa sala, magari un giorno ci potremo fare una lezione intera su questo pezzo, perché è un pezzo spettacolare. Io ho estratto solo i 20 secondi dell'assolo di Coleman Hawkins, che ci sentiremo due o tre volte perché voglio farvi entrare nel dettaglio di questo assolo. Il pezzo comincia con un'introduzione, dopodiché dopo il tema c'è l'assolo di sax tenore, che è quello che andiamo ad ascoltare. Ecco. Questo frammentino è incredibilmente ricco di idee. Provo, prima di farvelo riascoltare, notate una serie di cose, poi ve le faccio notare man mano che riascoltiamo. Intanto comincia sparando, è chiara la registrazione del 1926, dovete un po' lavorare di fantasia. Il suono è molto potente, lui ha un'intera orchestra dietro e se ne esce con queste due note che sono molto armstrongiane. Lui comincia con questa frase: tari tari tari tari ta ta. Questo ritmo ta di ta di ta di ta di ta ta con queste due note è Armstrong, portato sul registro acuto del sax tenore. Dopodiché lui scende giù, lo sentirete andare giù, poi fa delle frasi più alla Wideft, quando fa ta ta di da di da di da di da di di da di di da. Sono quasi da sassofono classico. Poi di nuovo va su, strozza con delle frasi blues, così. Poi farà, vi la faccio notare, una nota improvvisamente, una nota bassissima, fa po, la nota più bassa dello strumento, un si bemolle. E dopo, quando chiude l'assolo, lo sentite fare invece una frase clarinettistica. Prima scende e poi risale. Quindi mescola tecniche molto diverse. La cosa però più spettacolare dell'assolo è il suono. Avete sentito quanto è diverso dal suono di Wideft? È un suono rauco, cavernoso, possente, che buca il muro dell'orchestra ed ha, come dire, una specie di autorevolezza, di presenza che il sassofono di Wideft si sognava. Parte su. Vibrato. Blues. Occhio. Clarinetto. Ha esplorato tutti i registri dello strumento e certe frasi, pa pa pa, per esempio, sono ritmi che lui ha preso da Armstrong. Qui, in questo pezzo, sentite lo strumento che non esisteva, che comincia a esistere. Con una sua identità, non è uno strumento sdolcinato, non è uno strumento comico, l'avete sentito. Non è uno strumento che fa dei facili effetti, ma uno strumento che si esprime con una certa potenza. Nel corso di quegli anni Hawkins ha cominciato a mettere a punto anche un altro aspetto. Va bene, il sax tenore è uno strumento di... Lui lo sta identificando come uno strumento possente, come uno strumento maschio, autorevole, anche per il registro che ha, anche se, avete sentito, va su, giù continuamente. Però Hawkins comincia a scoprire un altro lato dello strumento, che chiamiamolo così un lato confidenziale, un lato da ballad. Di fatto Coleman Hawkins è l'inventore del sax tenore per ballad, del sax tenore confidenziale, ispirandosi ai cantanti confidenziali di quegli anni, parlo della fine degli anni 20, primi anni 30, come per esempio Bing Crosby, quelli che bisbigliano al microfono, ai nuovi microfoni della radio e ti fanno sentire che come se tu avessi la voce a fianco al tuo orecchio e non lì lontano sul palco. Hawkins sviluppa pian piano un suono più morbido anche, soffiato, e assolutamente confidenziale, ma di una confidenzialità non svenevole, e di una confidenzialità sempre, come posso dire, virile, con una sua fermezza, una sua autorevolezza. Il pezzo chiave da questo punto di vista è un pezzo fatto per un disco che è una All Stars di musicisti bianchi e neri di quegli anni. Non si poteva far suonare musicisti bianchi e neri insieme in quegli anni, però in studio chi compra il disco non se ne accorge, pensate l'ipocrisia, no? Non sai chi è, se il sassofonista è bianco o nero. Comunque, If I Could Be With You, One Hour, 1929, e sentirete anche il kazoo del... Abbiate pietà, il produttore prende il kazoo e fa il tema lui, pazienza, essendo il produttore. Però c'è questa introduzione di Coleman Hawkins e poi c'è il suo assolo. Il tempo non è lentissimo. Di solito noi pensiamo alle ballad come un tempo lento, ma il tempo lento nel jazz, nelle ballad, è rallentato negli anni 40, tra gli anni 40 e 50. Il ballo da mattonella, chiamiamolo così, poi se qualcuno si vuole prestare, ovviamente benvenuto, il ballo da mattonella negli anni 20 ha un tempo piuttosto sostenuto per i nostri standard, era più vivace. Allora voglio farvi sentire come Coleman Hawkins riesce a mettere a punto un altro aspetto dello strumento, il carattere confidenziale più che sentimentale. Sentite com'è? Seducente. Abbiate pietà del kazoo. In realtà è molto carino. Appoggia, vai. Poi è facondo, tante note. Pezzo prosegue in modo molto bello, questa atmosfera intimista che è una specie di novità per il jazz di quegli anni. Tutto questo ci suona, io per esempio adesso ascoltandolo con voi, ascolto One Hour e penso, ah beh sì, una ballad per sax tenore, ah beh no, nessuno lo faceva, questo è un unicum. Se ascoltate i sax tenori di quegli anni, un grande di quegli anni, per esempio come Bud Freeman, sono legati ad una sonorità, a un fraseggio più da clarinetto. Per esempio non c'è questa incredibile ricchezza di colori col sax, con le note che si schiacciano, il portamento, la nota legata e poi la frase appena un po' più strozzata che va su. Tutta questa ricchezza emotiva, ma anche di colore dello strumento, è prerogativa esclusiva di Coleman Hawkins. E nessuno, ripeto, nessuno, è in grado ancora di assimilare e per gestire e personalizzare questo tipo di caratteristiche. Hawkins è veramente solo in questo. Una cosa che sicuramente non si coglie bene in questo tipo di registrazione è un aspetto che poi magari vedremo anche meglio dopo. Hawkins doveva avere un suono gigantesco. Sottolineo questo aspetto perché è una delle cose più tragicamente sottovalutate quando parliamo di jazz, perché noi purtroppo il jazz storico lo possiamo fruire attraverso i dischi e i dischi non restituiscono uno dei motivi per cui il jazz ha avuto successo presso il pubblico. Uno dei motivi chiave per cui il jazz ha avuto successo presso il pubblico è perché questi grandi solisti avevano un suono che se lui fosse stato qui vi sarebbero tremate le viscere. Qualcosa di immenso. Chi di voi ha avuto l'esperienza di ascoltare, non oggi, ma per esempio 20 anni fa, Sonny Rollins, sa di cosa sto parlando. C'è qualcosa che ti soverchia fisicamente, qualcosa a cui che non riesci neanche a descrivere. Hawkins era così, doveva avere un suono immenso. Quando lui fa quell'assolo di The Stampede, immaginate che sta suonando pezzi del genere in una sala da ballo dove ci sono 2000 persone che ballano, che fanno casino, e non c'è amplificazione. C'è un'orchestra dietro di lui che suona a pieni polmoni, lui si alza, viene fuori e si deve far sentire dall'ultimo ballerino in fondo alla sala. Pensate che suono gigantesco tira fuori uno così. Tutti i grandi del jazz che parlano di Coleman Hawkins, per esempio Sonny Rollins, John Coltrane, Dexter Gordon, quelli che ci hanno suonato, che lo hanno conosciuto, la prima cosa per cui che ti blocca è il suono. Quindi anche quando ha questo aspetto confidenziale, il suono di Hawkins doveva essere enorme, pienissimo. C'è un altro aspetto che Hawkins sul sax tenore sviluppa nel corso invece dei primi anni 30, andando avanti cronologicamente, ed è una specie di iperbole di quello che abbiamo sentito qui, una fioritura melodica. Avete sentito? Il tempo è lento, ma lui non fa poche note, ne fa tante. È pieno di abbellimenti, è un solista quasi baroccheggiante, pieno di fioriture, sia sui tempi rapidi che sui tempi lenti. Vi vorrei far sentire due frammenti con l'orchestra di Fletcher Anderson, 1932, due assoli. Perché scrivo la fioritura armonica? Perché contemporaneamente Hawkins fa una strana operazione, amplia ancora di più il suono dello strumento, che lo sentirete registrato meglio anche qui, diventa ancora più possente, ma pur aggiungendo peso rende molto più ricco e molto più fiorito il fraseggio, quasi rapsodico. Anzi, poche chiacchiere, vi faccio sentire l'assolo da Honeysuckle Rose con l'orchestra di Fletcher Anderson e sentite che tripudio barocco di suoni. Avete sentito? Una marea di note, sale, scende, e il suono però è tagliente, è ancora più cavernoso. L'avete sentito quanto è potente, quanto è netto nell'attacco, molto percussivo. Lui non ha più bisogno, come Rudy Widef, di fare i colpi di lingua. Quegli effetti, questo è molto importante, quegli effetti tra il comico e il percussivo usati da Widef e da tantissimi altri sassofonisti di quegli anni, grazie ad Hawkins, diventano datati, scompaiono dal linguaggio. Non c'è bisogno di giocare con gli effettini, perché c'è altro che diventa espressivo. Sapete quando rientrano in campo quegli effetti? Con il free jazz. Allora, se ascoltate Roscoe Mitchell o Anthony Braxton, scoprite come quei sassofonisti si rifanno a quegli effetti anni 20 di colpi di lingua, di effetti di altro tipo sullo strumento. Hawkins fa diventare però negli anni 20, anni 30, questo materiale banale. Vi faccio sentire un secondo assolo che è ancora più bello, Sono solo 16 misure, da New King Porter Stomp, stessa seduta di incisione, 1932, con l'orchestra di Fletcher Anderson, e sentite, qui il suono è ancora più tagliente, possente. Perché dicevo fioritura armonica prima di ascoltarlo? Perché suonando un sacco di note, Hawkins aggiunge anche un sacco di note agli accordi che ci sono sotto. Cioè arricchisce il linguaggio musicale. Poi vi farò un esempio al piano quando parleremo di Body and Soul. Ma intanto capiamo che suonando molte più note non è che sviluppa un'idea melodica. Avete sentito? Hawkins non è un genio della melodia. Non è che l'assolo di Honeysuckle Rose uno se lo canta come se fosse un'aria meravigliosa. Però è uno che aggiunge materiale. E questo ve lo dico subito, nel 1932 è già il Coltrane degli anni 50. C'è un sassofonista che suona un sacco di note per aggiungere tanto materiale alle cose che ci sono sotto. E questo è New King Porter Stomp. Poi va su. Tutto qua. Ve lo faccio risentire perché è veramente formidabile. Un'unione di potenza e agilità. Scusate. Questo è un Isaac Rose, mi sento un tutto. Il linguaggio è complesso, perciò. E poi New King Porter Stomp. Preparando questa conferenza, giorni fa mi sono imbattuto in un documento su YouTube, che come sapete è un pozzo senza fondo, però bisogna anche saperle andare a cercare le cose. Finora abbiamo sentito Hawkins, abbiamo visto qualche foto, e ho scoperto che esiste un documento del 1935 di Coleman Hawkins in video, all'età di 34 anni. Ed è in una circostanza molto particolare. Hawkins, per la nostra storia, nostra dico di italiani, di europei più che di italiani, è una figura fondamentale. Perché nel pieno della Grande Depressione l'orchestra di Fletcher Anderson si sciolse all'inizio del 1934 e Hawkins prese una decisione. Benché fosse uno dei musicisti più importanti dell'orchestra e uno dei musicisti neri meglio pagati e più importanti degli Stati Uniti, decise di andarsene perché la vita era veramente pessima. E dove va a vivere? Viene in Europa. Tra il 1934 e il 1939, Coleman Hawkins passa 5 anni in Europa, fondamentali per il jazz europeo. Ne parleremo fra 2 settimane, per esempio, fra una settimana, per esempio, incontra Django Reinhardt. Hawkins porta il vero jazz americano in Europa. Non suonerà in Italia, suona in Olanda, suona in Francia, suona in Belgio, in Germania, tocca alcuni paesi della Scandinavia. Non era l'unico, tra l'altro, americano che era scappato dagli Stati Uniti. In Europa ritrova Louis Armstrong, Benny Carter, Rex Stewart e altri musicisti. Bene, il filmato che vi faccio vedere ci mostra, è molto breve, è Coleman Hawkins in Olanda nel 1935, accompagnato da un pianista olandese che fa brevemente un tema, si presenta, è un po' impacciato, e suona brevemente una canzone dell'epoca. È un documento eccezionale da cui, tra l'altro, si intuisce l'enormità del suo suono. Il pezzo si chiama I Wish I Were Twins. I'm very glad that the Dutch Picture Company, Fuller Cohn, has given me this opportunity to meet you in person. Now, I think the best thing for me to do is to play you a few bars at least, from a late number that I think will be a very popular hit. I wish that I were twins. Meravigliosa, meravigliosa, un'emozione unica, perché veramente vedere Hawkins, appunto giovane, suonare in video è una cosa veramente eccezionale. Tenete conto che mentre Hawkins era in Europa, i sassofonisti tenori che stavano emergendo nelle grandi orchestre americane di quegli anni, quella di Jimmy Lunsford, quella anche a Kansas City di Benny Moten, e altre orchestre, stavano maturando musicisti che stavano cercando di assimilare il linguaggio di Hawkins, perché non c'era altro modello, è quello l'unico modo di suonare il sax tenore. Hawkins non è negli Stati Uniti, i dischi che fa in Europa non arrivano negli Stati Uniti se non occasionalmente, ma la sua distanza non impedisce, questo è un interessante fenomeno storico, non impedisce lo svilupparsi dell'influenza che lui ha. Sulla base di cosa? Sulla base di quelle cose che abbiamo sentito prima, i dischi con Fletcher Anderson, per esempio. Al tempo stesso Hawkins sta lasciando un segno fondamentale sullo sviluppo del jazz in Europa. Ma intanto, mentre il sassofono parla la lingua di Coleman Hawkins e cominciano per esempio a maturare i suoi primi grandi allievi, un nome su tutti che non abbiamo il tempo di ascoltare, Ben Webster, per esempio, quindi musicisti con questo suono, che cosa prendono da Hawkins? Il suono pieno, il vibrato, il gusto della nota strozzata verso l'acuto, la fioritura e la ricchezza melodica, questo gusto anche rapsodico di fraseggiare, il carattere maschio, mascolino, quasi aggressivo, seducente e minaccioso del sax tenore. Mentre tutto questo prende forma, si aggira negli Stati Uniti, ignoto a tutti, un altro personaggio. Questo personaggio è Lester Young, di pochissimo più giovane di Coleman Hawkins, morto 10 anni prima di Hawkins, con una storia molto diversa, musicista, se vogliamo, meno in senso tradizionale colto di quanto fosse Hawkins, figlio di musicisti che si forma nella compagnia di vaudeville della famiglia. Il fratello, per esempio, Lee, era un eccellente batterista, e per tutta una serie di, che non stiamo qui a raccontare, di storie, di fortune e anche sfortune, Lester Young si ritrova a lavorare alla metà degli anni 30 a Kansas City, in particolare nel Missouri, che tra l'altro era lo stato di origine di Coleman Hawkins prima di trasferirsi a New York, e si trova a lavorare a Kansas City. Ora, Kansas City è un posto su cui magari io continuo a accreditarmi presso l'auditorium, faremo un'altra lezione di jazz, È un posto importantissimo per la storia del jazz, perché negli anni in cui c'era una grande depressione economica e culturale anche negli Stati Uniti, Kansas City, siccome era totalmente gestita dalla mafia, era un luogo in cui prosperavano sia il crimine e, mi viene a dire di conseguenza, sia il mondo dello spettacolo, almeno così era in quegli anni, per cui giravano soldi sostanzialmente. Ecco, Lester Young cresce in quell'ambiente. Però noi di Lester Young, da un punto di vista musicale, non sappiamo nulla, anzi vorrei portarvi a Lester Young così come l'ha scoperto il mondo. Lester Young ha suonato per anni a Kansas City, suonava con l'orchestra di un pianista del New Jersey che anche lui per una serie di strane avventure della vita era finito a Kansas City, di nome William Basie, Bill Basie, detto Count dagli amici, Count Basie, che dirigeva questa band a Kansas City, e Lester Young era tra il 35 e il 36 dentro questa band. Questa band viene scoperta da un manager, diciamo così, da un personaggio molto particolare di New York, John Hammond, che dice alla band: venite a New York perché qui vi faccio fare i soldi. La faccio un po' breve, ma grosso modo è così. Fanno un piccolo tour che passa da Chicago, prima di arrivare a New York. A Chicago hanno la possibilità di registrare dei dischi. Questi non avevano mai fatto un disco, Lester Young non aveva fatto un disco in vita sua. Siamo nel 1936. Quindi Lester Young aveva 27 anni. Noi abbiamo i dischi di Coleman Hawkins a 21 anni, per dire. Ma non abbiamo niente di Lester Young giovane. Compare questo disco del 36, di questo tour di Count Basie che si ferma a Chicago andando verso New York. Vengono incisi 4 brani. Uno di questi è una versione di Lady Be Good. Il gruppo è raccogliticcio, il batterista c'è solamente il Charleston, un piatto, un cracassa, ci sono il trombettista, Basie, il bassista e Lester Young. Sono tutti sconosciuti, perché non avevano fatto dischi, a parte Basie con Benimoto, ma di fatto non era un nome conosciuto. Dei signori nessuno. Quando alla fine del 36 esce questo disco, qualcuno è come se ricevesse una botta in fronte. Perché? Da questo disco, come una specie di personaggio che esce dal nulla, si sente un sassofonista tenore pazzesco che ha una caratteristica fondamentale: non suona come Coleman Hawkins. E da dove esce? Come non suona come Coleman Hawkins? Sì, suona in modo completamente diverso. Vi faccio sentire l'assolo di Lester Young per cominciare, sentiamolo, in Lady Be Good del 36. Una delle cose belle del jazz è cercare di capire che il suono fa la differenza e la personalità di un solista si manifesta nella originalità del suo suono. Cerchiamo di capire in cosa è diverso il suono di Lester Young da quello di Coleman Hawkins. Intanto Coleman Hawkins avete sentito che ogni nota è una rasoiata, è un attacco netto, legnoso, si sente lancia, ta, ta. Qui avete invece morbidezza, le note sono l'una legata all'altra. Hawkins tende a scolpire ogni singola nota. Young, lo sentite, è invece fluido, le lega fra di loro, sono morbidi i suoni di Lester Young. Hawkins tende a finire ogni nota con un vibrato, molta forza. Young no, non fa in tempo a fare il vibrato perché una nota già trascolora nell'altra. Sono come sospese queste note. E poi il modo di stare sul tempo è completamente diverso. Hawkins, l'avete sentito, è suadente, è rapsodico, aggiunge note, è anche, diciamo, volutamente discontinuo, no? Cioè ti fa la nota blues, poi fa il fraseggio veloce che scende, poi fa la nota strozzata, poi prende una frase più ritmica, è volutamente discontinuo. Young, avete sentito, è una linea continua. Una concezione opposta, e c'è un'idea del sax tenore non di uno strumento possente, ma di una specie di suono galleggiante. Certo, ha un suono scuro anch'esso, ma è completamente, è come una nuvola, è morbido, non so come dirvi, è soffice, non ha l'effetto tagliente di Coleman Hawkins. Poi c'è un altro aspetto. E questo già è, uno si chiede, ma scusa, se tutti i sax tenori del mondo, non sto scherzando, del mondo, suonano come Coleman Hawkins, come fa questo a sviluppare un'idea così alternativa? Viveva fuori dal mondo? No, vedremo poi qual è l'origine. Però c'è un'altra cosa su cui subito voglio attirare la vostra attenzione e riascoltiamola solo. Young è un musicista eminentemente melodico, è uno dei più grandi melodisti della storia del jazz. Le sue frasi sono perfettamente cantabili, poi le analizzeremo ancora più in dettaglio, però vorrei farvi notare in particolare come il flusso scavalchi le frasi cosiddette di otto battute. In genere le canzoni su cui, come Lady Be Good, su cui si lavora, sono fatte di tanti piccoli blocchi, di otto battute ciascuno. Chiaramente i solisti di solito prendono fiato ad ogni blocco, perché c'è una logica, diciamo, ogni blocco è una logica chiusa, c'è una frase, poi c'è una frase, poi c'è una frase. Ma questo è anche un modo, se volete, un po' rigido di procedere. Un musicista con un'attitudine melodica, come Young, tende invece a scavalcare questi blocchi. Ve li farò notare man mano che accadono. Hawkins non sempre lo fa, ma non ne ha bisogno, sapete perché? Perché dentro ogni blocco mette tante di quelle note che tu non senti il blocco. Cioè lui è, come ha detto il grande George Russell, un musicista verticale, uno che scava in ogni blocco. Blocco dopo blocco. Invece Young è un musicista orizzontale, è uno che passa da un blocco all'altro delle frasi collegandole in maniera fluida fra di loro. Lo riascoltiamo. E vi faccio notare appunto i famosi blocchi. Quattro anni dopo, un ragazzino di nome Charlie Parker suonerà questo assolo nota per nota in un concerto. Noi abbiamo una registrazione dove l'orchestra di James McShane fa Lady Be Good e lui sul sax contralto suona nota per nota questo assolo. Vi ricordo che Charlie Parker è cresciuto a Kansas City, cioè nella città in cui è maturato Lester Young. Da dove viene questa concezione originale? Viene da un meccanismo che vi sorprenderà un po'. Di solito noi pensiamo che il jazz sia, ed è giusto che sia così, è una prospettiva corretta, una musica sostanzialmente inventata dagli afroamericani che poi hanno influenzato anche i musicisti bianchi Tant'è vero che arriviamo perfino a una specie di razzismo involontario, pensando che se uno ha la pelle nera, automaticamente c'ha più swing, come se fosse nel DNA, no? Mentre ovviamente è un fatto culturale. Però nella storia del jazz a volte succedono delle cose contrarie. Lester Young non suona come Coleman Hawkins perché il suo modello non era Coleman Hawkins. Il suo modello erano dei musicisti bianchi degli anni 20, tra l'altro amici di quelli che suonava il kazoo che avete sentito. Cioè il giro di Big Spiderbeck, in particolare un grande e sottovalutato sassofonista, Frankie Trumbauer, che era amico intimo, intimissimo di Big Spiderbeck, che vedete suonava il si melodi sax, il sax tenore più piccolo, il sax tenore in do, quello di Rudy Wideft. Ma al contrario di Wideft, lo suonava con una dolcezza infinita. Il suono del si melodi sax di Frankie Trumbauer è alla base del suono di Lester Young. Avete un sassofonista che suona il sax in do bianco degli anni 20, molto vicino più al pop che al jazz, che influenza un solista nero. Quindi, come vedete, le cose non vanno sempre secondo i cliché che pensiamo. Vi faccio sentire Why Down Yonder in New Orleans, prima suonato da Frankie Trumbauer, un assolo del 1927. Come il si melodi sax di Trumbauer. Non c'è niente della comicità di Wideft. Sentite come schiaccia, come melodico. Tra Big Spiderbeck, ma questa è ovviamente materia di un'altra lezione ancora di... Ormai mi sto accreditando per i prossimi 10 anni. È strano che un musicista nero degli anni 30 suoni un pezzo di un repertorio bianco degli anni 20, cioè Way Down Yonder in New Orleans. E Lester Young, guarda caso, lo fa con un gruppo di amici di Kansas City nel 37, e questo è il suo assolo. Leggero. Impressionante, c'è una leggerezza, una freschezza che non ha niente a che fare con il mondo rude di Coleman Hawkins. E quelle note appoggiate, questo senso melodico che vi dicevo di scavalcare le cesure della canzone, questa idea di concatenare, le vedremo meglio in uno dei prossimi esempi, gli elementi melodici, vengono dall'eredità di Frankie Trumbauer. Lester Young era talmente ossessionato dalla melodia, gli piaceva talmente tanto l'idea di melodia, che non poteva non essere affascinato proprio da uno dei musicisti più melodici della storia del jazz, cioè Big Spiderbeck, il sodale amico di Frankie Trumbauer, un musicista bianco di formazione bianca che va a influenzare un trombettista, cornettista bianco, che va a influenzare un sassofonista nero degli anni 30. Volete la prova del 9? In un disco del 28 con l'orchestra di Paul Whiteman, When, Big Spiderbeck improvvisa un assolo e fa una piccola frase alla fine di questo assolo. Molti anni dopo, nel 40, Lester Young scrive per l'orchestra di Count Basie un tema, Tickle Too, la cui coda è la citazione letterale della frase di Bix Beiderbecke, un omaggio a un cornettista bianco. Questa. Ok? Ve lo faccio sentire, visto che siete scettici. Anzi, lui la ripete pure per gli scettici. Questo scusate, questa attitudine melodica, avete visto, si sposa ad un clima emotivo molto diverso. Vi chiedo scusa per la tosse. La faccio un po' drammatica così prendo fiato. Si sposa ad un clima emotivo molto diverso. Questo è un punto chiave, perché stiamo parlando di persone che stanno esprimendo se stesse. Ne approfitto per fare una piccola parentesi, cioè piccola, in realtà è il nocciolo della giornata di oggi. Coleman Hawkins e Lester Young suonavano lo stesso strumento. Cioè, vorrei che faceste mente locale su questo. Non stiamo parlando di un pianista e di un trombettista. Questi due strumenti sembrano due mondi completamente diversi. Fisicamente stiamo parlando dello stesso strumento. Certo, magari l'ancia sarà diversa e i sassofonisti sanno che fanno la differenza. Il modo in cui chiudi l'imboccatura. Certo, la struttura fisica, i polmoni, il modo in cui ti muovi, eccetera. Però stiamo parlando della stessa meccanica che produce due mondi sonori, colori, timbrici, al di là delle note scelte, proprio del suono, completamente opposti. Questo è il jazz. Se mi consentite una frase un po' ad effetto, ma è così. Il fatto che io suono una nota, io sono in un modo, lui suona in un'altra e ci distinguiamo per questo, perché siamo diversi e abbiamo le nostre personalità. Qual è dal punto di vista emotivo il punto chiave? È che Coleman Hawkins, abbiamo visto, è un solista, è un seduttore, è un musicista con una sua attitudine virile, ha una sua intrinseca potenza espressiva e vedremo più avanti anche in Nuce, qui si avverte nei dischi che abbiamo sentito fin qui, qualcosa di drammatico anche. Qui invece abbiamo un musicista lieve, quasi candido, abbiamo un'attitudine espressiva non disimpegnata, ma emotivamente un po' più distaccata. Meno, come dire, meno pregna di emozioni forti, come se Lester Young galleggiasse emotivamente facendo un piccolo passo indietro. È quello che gli americani chiamavano anche già in quegli anni il cool, cioè darsi un minimo di posa. Oggi cool vuol dire figo, in realtà ha sempre voluto dire, la verità, ha sempre voluto dire darsi una posa, darsi un tono. Bix Beiderbecke era cool perché si atteggiava in un certo modo. E questa parola ha cominciato a essere associata più tardi anche a Lester Young, perché questa piccola distanza emotiva, questo piccolo passo indietro, come dire, non ti mostro tutte le emozioni profonde, ti sorrido e mi mantengo un po' in disparte, è una cifra dello stile di Lester Young. Ed è, come vedremo, una cifra stilistica ed emotiva che ha influenzato un'intera stagione del jazz. E vorrei farvelo capire facendovi ascoltare un altro brevissimo assolo da un disco vocale dell'orchestra di Count Basie nel 38 che si chiama You Can Depend on Me. C'è Jimmy Rushing che canta e a un certo punto Lester Young entra. Sentite quanto è leggero il suono e quanto è emotivamente trasparente, quasi fragile. Only if you need a friend, I'm yours until the end. You know you can count on me. Mm-hmm. colloquiale. Galleggia senza bisogno. L'Estereanga aveva un suono enorme anche lui, eh? Non suonava piano. Il fatto che suoni leggero non vuol dire che suoni piano. Attenzione, uno può essere leggerissimo e avere comunque un suono enorme. L'Estereanga aveva un suono enorme, però questa attitudine, avete sentito, a essere quasi impalpabile in certi punti. Il sax tenore non è impalpabile, ci ha insegnato Coleman Hawkins. Il sax tenore è uno strumento che riempie, lui invece sottrae, alleggerisce. Vedremo le conseguenze che avrà questo. C'è un ultimo aspetto dello stile di Lester Young che voglio... Anzi no, vi faccio subito vedere, lo vedremo nella slide successiva, l'influenza che Lester Young ha... Qui l'ascoltiamo non tutto, il brano l'ho messo tutto, ma poi magari lo chiederò al tecnico se cortesia mi può sfumare quando faccio un segno, grazie. Questa attitudine cool, questo distacco emotivo, questa freschezza... appena con un po' di posa, sarà la base del cosiddetto cool jazz, che deriva tutto da questa estetica della leggerezza emotiva di Lester Young. Avete capito che leggerezza non vuol dire disimpegno, al contrario vuol dire stare un po' in sospeso. E c'è un brano che si chiama Four Brothers, in cui ci sono quattro sassofonisti, scritto da Jimmy Giuffre nel 1947, che non è altro che una gigantografia dello stile di Lester Young. Tre sax tenori e un baritono che sono Lester Young come in un gioco di specchi, moltiplicato per quattro. Il quarto di questi è un ragazzotto, 19enne, 20enne, di nome Stan Getz, che Lester Young detestava. E aveva ragione, sapete perché? Perché Stan Getz stava facendo un sacco di soldi copiando lo stile di Lester Young. Pari pari. Perché faceva soldi? Perché era bianco. E Lester Young, a causa della pelle nera, come vedremo, ha avuto un sacco di problemi. Vi faccio sentire il tema di Four Brothers per sentire questo, e poi gli assoli, così sentiamo anche Stan Getz, per sentire questo Lester Young moltiplicato per 4, una gigantografia. Sembra l'assolo di prima. Però per 4. Che si succede ora? Sono tutti uguali, imitano tutti le seriali. Questo è il primo. Questo è un baritono, si distingue. Sentite questo ora? Identico al precedente, Stan Getz, eccolo. Uguale. Dai. Grazie. Come avete sentito, una vera e propria moltiplicazione degli stili di Lester Young. C'è un ultimo aspetto che vorrei analizzare con voi dello stile melodico di Lester Young. Abbiamo detto che Lester Young è stato uno dei più grandi melodisti della storia del jazz, ma anche uno dei più grandi costruttori di assoli, perché l'assolo è un discorso, è una retorica, è un modo di organizzare le idee e le proprie emozioni. Coleman Hawkins aveva scelto l'approccio, abbiamo visto, rapsodico, a contrasto, discontinuo. Young è esattamente l'opposto, e invece è un approccio con di continuità. Allora vorrei analizzare quasi nota per nota con voi un famoso assolo di Lester Young, Jive at Five, un pezzo di Harry Edison, trombettista di Count Basie, con un piccolo gruppo. Il pezzo meriterebbe un ascolto integrale perché è meraviglioso, uno dei miei pezzi preferiti di jazz in assoluto, ma mi concentro per ragioni di tempo solo sull'assolo di Lester Young. Ve lo faccio intanto sentire una volta per intero. Centrale per la tromba, l'autore del pezzo. Ok, ora vi faccio sentire di nuovo l'assolo. Che comincia, sì, ho sganciato il, lo metto in tasca. In realtà, prima di sentire questo, scusate, prima di sentire questo, voglio farvi risentire l'inizio. Avete pazienza un attimo. Ok. Sentite la prima frase. Eccetera. Ok. Questa frase che avete sentito dopo. Mi sto incartando con la slide. Ve la faccio vedere così. Faccio prima. E questo comincia così. Sapete cos'è? È che il pezzo che... No, lo so che non si vede. Il pezzo successivo che avete sentito, questo, è un pezzo di Bud Powell. Si chiama Bud's Blues e Bud Powell l'aveva pensato come un tema preso dall'inizio dell'assolo di Jive at Five. Cioè, che cosa pensate? C'è uno che improvvisa un assolo. La prima frase è talmente bella che qualcun altro prende quella frase e ci fa un tema, che è Bud's Blues. Come continua Jive at Five? Vorrei farvi risentire, sentite come concatena i motivi Lester Young. Lui fa due tipi di frasi sostanzialmente. La prima, vabbè, è a sé, è questo tema. Poi c'è una frase che fa una cosa del genere. Sull'accordo. Ecco, questo arpeggio lo sentirete tornare più volte. E un secondo ingrediente è che a un certo punto l'armonia scende, qualcosa tipo, cioè fa. Allora lui prende la frase e che so, fa. No? Cioè segue, come l'armonia scende, lui segue melodicamente, fa scendere anche la frase. Allora lui alterna continuamente questa cosa qui. Questo arpeggio e la frase che scende. Sentite come le combina. Scende. L'arpeggio. L'arpeggio. Ampliato. Scende. tromba. L'arpeggio. Di nuovo. Ampliato. Scende. Avete sentito come con questi pochi elementi c'è un'architettura estremamente ricca? Prima di tornare a Coleman Hawkins, ci chiediamo, ma i due si erano mai incontrati? Sì. Si incontrarono in una mitica notte nel 1934, poco prima che Coleman Hawkins partisse per l'Europa. Pensate, l'orchestra di Fletcher Henderson passa da Kansas City. Arrivati a Kansas City, il grande Coleman Hawkins sente dire che c'è un sassofonista locale particolarmente dotato. E come succedeva, e come succede a volte anche nel mondo molto competitivo del jazz, roba di galli proprio che si beccano, va nel locale dove suona questo tale Lester Young, che ovviamente, vi assicuro, nessuno aveva mai sentito nominare, il grande Coleman Hawkins va lì e nasce una sfida. Questa sfida dura tutta la notte, è una storia, non è un aneddoto, non è una storia inventata, è una storia che ha dei riscontri storici. È la più mitica battaglia di sax tenori che si ricordi nella storia del jazz e si conclude con la vittoria di Lester Young. All'alba, Coleman Hawkins, anche perché, diciamoci la verità, giocava fuori casa, all'alba Coleman Hawkins ammette la sconfitta e questa battaglia si conclude con la vittoria dell'eroe locale, Lester Young. Questa storia, tra l'altro, poi ha un seguito, perché quando Coleman Hawkins lascia l'orchestra di Fletcher Henderson, di cui era un divo, sapete a chi si rivolge Fletcher Henderson? A Coleman Hawkins, a Lester Young. Gli dice, vieni a prendere il posto di Coleman Hawkins. La cosa non funziona, sapete perché? Perché Lester Young non suonava come Coleman Hawkins e l'orchestra lo protesta, lo butta fuori. Addirittura la moglie di Fletcher Henderson, che era la manager dell'orchestra, gli mette i dischi di Coleman Hawkins, dice, ma tu devi suonare così, cioè lo stile della nostra orchestra è questo, sforzati. E lui dice, ma io ci riesco, il mio stile è un altro. La famosa battaglia di sax tenori, non ve la faccio vedere perché non ho il tempo, però la potete trovare in un film molto non molto famoso, insomma un bel film, che è Kansas City di Robert Altman. Kansas City di Robert Altman è tutto ambientato in una notte in cui la mafia trucca le elezioni, la mafia nera e la mafia bianca, truccano le elezioni del sindaco mafioso e tutta quella notte è la famosa notte della jam session fra Lester Young e Coleman Hawkins, che sono interpretati da Joshua Redman e Craig Handy. Se riguardate il film, verso diciamo, la metà del film, c'è il momento della jam session in cui i due sassofonisti si confrontano mentre il mafioso Harry Belafonte prepara le elezioni truccate del sindaco. Nel frattempo, Lester Young stabilisce un sodalizio eccezionale con la donna della sua vita, non dal punto di vista sentimentale, anche se lui era innamorato di Billie Holiday, ma da un punto di vista musicale i due sono stati due facce della stessa medaglia. Intanto a Lester Young e a Billie Holiday si devono i rispettivi soprannomi. Billie Holiday chiamò Lester Press, cioè President of Tenor Saxophone, il presidente dei sax tenori, e Lester Young chiamò lei Lady Day, Billie Holiday. Ci sono molti dischi importanti in cui si possono ascoltare la voce del sax di Lester Young che si intreccia con la voce di Billie Holiday. Cos'è che rende magico questa unione? Cerco di dirlo in una frase sola. Sono entrambi due artisti della fragilità. Sono entrambi due artisti della nudità emotiva. Il jazz è una musica molto aggressiva, lo sappiamo. È una musica maschia, una musica che spinge, no? Sul pedale della forza emotiva. Billie Holiday e Lester Young sono stati due maestri, come tra l'altro uno dei maestri di Lester Young, cioè Bix Beiderbecke, sono stati maestri, come dire, del candore, della nudità emotiva, della fragilità, del mettersi in gioco senza veli, senza schermi. Questo lirismo delle due voci che si intrecciano, una così, come dire, quasi pastello, che è quella di Lester Young, e l'altra più incisiva di Billie Holiday, è veramente magica, per colore, e sentite come i due, per esempio in questa versione al maschile di She's Funny That Way, ribattezzata He's Funny That Way, 1937, i due girano l'uno intorno all'altro senza mai scontrarsi, è qualcosa di veramente magico. Ascoltate attentamente il sax. Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got a man crazy for me. He's funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer is one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way and no better plan. End it all and let him go to some better gal. But I'm only human, a coward at best. I'm more than certain he'd follow me west. I've got that man crazy for me. He's funny that way. Roy Eldridge. No, è Buck Clayton, chiedo scusa, Buck Clayton, dell'orchestra di Count Basie. Though he loves to work and slave for me every day, he'd be so much better off if I went away. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me. Il rapporto fra Billie Holiday e Lester Young è immortalato in un breve, in un lungo video, ma in un breve passaggio che sono sicuro che quattro quinti di voi qui dentro conosce. Chi non lo conosce avrà una meravigliosa sorpresa. In un filmato del 1957, Lester Young ormai malato, era malato di sifilide, e anche Billie Holiday era sulla Viale del Tramonto, siamo in una trasmissione televisiva, The Sound of Jazz, 1957, c'è una All Stars, in mezzo ci sono Ben Webster, Jerry Mulligan, c'è Coleman Hawkins e c'è anche Lester Young. Billie Holiday canta delle strofe di blues e tra una strofa e l'altra c'è un sassofonista che esce e fa l'assolo. Dopo Ben Webster, con un assolo molto carico appunto alla Coleman Hawkins, entra Lester Young che fa un assolo di una semplicità sul blues miracolosa, quattro note, ma forse tre note, non quattro. Guardate come reagisce emotivamente Billie Holiday al discorso di Lester Young, perché lo capisce, sa cosa sta dicendo. Thank you. impressionante. Nel 1900, mentre tutto questo accade, a parte questo filmato del 57, con Coleman Hawkins in Europa, ma l'Europa sta andando anch'essa verso il declino, la guerra si avvicina e molti musicisti americani, compreso Coleman Hawkins, decidono di tornare negli Stati Uniti, dove peraltro le condizioni di lavoro ora sono migliori. Nel 1939 Hawkins prende un piroscafo e torna a New York, è accolto come un divo, letteralmente, c'è gente che lo aspetta sulle banchine del porto, gli fanno una festa pazzesca e comincia a suonare nei locali della 52esima strada. Tra i tanti pezzi che lui suonava continuamente c'era una ballad che si chiamava Body and Soul e quindi quando va a incidere i primi dischi dice vabbè, suono anche questa. È la benedizione e la maledizione della sua carriera. Quel disco Body and Soul è destinato ad avere un successo enorme che perseguiterà, parole di Hawkins, lo perseguiterà tutta la vita, che lui andava ai concerti, Body and Soul, e lui non ne poteva più. In realtà lui dice ho suonato tante cose anche meglio, però quel disco ha avuto successo. Cosa ha di speciale Body and Soul del 1939? Vi ricordate One Hour? È l'evoluzione di quella cosa lì, cioè l'evoluzione della ballad per sax tenore in senso classico, che oggi ci appare classico, ma che all'epoca era appunto in innovazione. Ci sono due caratteristiche di Body and Soul che ascolteremo per l'ennesima volta, vale la pena di riascoltarlo per intero. La prima è la struttura generale dell'assolo. Coleman Hawkins, adesso il contrasto sarà forte con Lester Young, dopo aver sentito, ritorniamo a questa carica emotiva, Coleman Hawkins tende a costruire l'assolo in un modo completamente diverso da Lester Young, in un modo che aveva imparato a suo tempo da Armstrong e che sarà un paradigma per tutti gli assoli di sax tenore a venire, di ballad. Sapete qual è il paradigma? Che parto piano piano, cresco e poi verso la fine tocco un culmine. Il culmine non è solo emotivo, è proprio di registro. Vado su, strozzo le note. Fino a Coltrane, fino a Giolovano, fino a oggi, il sassofonista tenore quando fa la balla, a un certo punto carica, arriva un culmine, il pezzo raggiunge il clou e poi si quieta. Questo è Body and Soul. Body and Soul ha imposto questo modello retorico della costruzione dell'assolo che peraltro peraltro è stato ripreso poi anche nel rock. Cioè il chitarrista rock cosa fa, no? Carica fino ad arrivare a un culmine che poi anche di registro, cioè non è solo emotivo, ma vuol dire anche andare su nelle frequenze. Il secondo aspetto che avrà un'enorme importanza per il bebop è che Coleman Hawkins aggiunge note a note tutta quella effervescenza e fluorescenza di note, raggiunge un culmine con l'aggiunta di accordi che abitualmente non ci sono nella base. Per esempio, se lui ha questa base, lui tende a sostituire il secondo accordo, invece di fare questa cosa più semplice, fa questa cosa più complicata. Ok? Più cromatica. Infatti lo si sente spesso fare questa frase, tipo, proprio così, o anche così. Queste aggiunte più dissonanti sono la chiave che poi portano all'apertura della strada del jazz bop. Non a caso Coleman Hawkins sarà il primo musicista importante a dare lavoro a Thelonious Monk. Sarà l'uomo al portone del quale bussano, ma letteralmente, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, per passare delle giornate al piano e chiedergli scusa, ma sta accordo come si fa? E questo come funziona? E l'uomo che, essendo introdotto nel music business, incide i primi pezzi di Dizzy Gillespie nel 43-44, che non era nessuno, è quello che gli trova le sedute di registrazione, è quello che gli registra le composizioni. Cioè Hawkins è una figura fondamentale nello sviluppo del bebop, sia da un punto di vista musicale, e questo è meno noto, sia da un punto di vista imprenditoriale, perché apre, per esempio nelle case discografiche, delle strade precluse ai musicisti sconosciuti di quell'epoca, come Monk, come Parker, come Gillespie, in virtù di cosa? Della sua autorevolezza. Andiamo a sentire Body and Soul con tutte queste dissonanze e il suo clou, il suo climax. all'inizio fa il tema e poi lo abbandona. Le sostituzioni, eccola. Questa. Cavalca tutte le cesure. Anche l'idea che questa voce maschia, solitaria, virile, conclude in assoluta solitudine, seppure con poche note, perché questo è un disco, ma dal vivo Hawkins era molto più audace. Sono uscite di recente registrazioni radiofoniche impressionanti, perché uno quando fa il disco, capite, cioè, osa di meno, poi dal vivo invece osi fare delle cose che sono veramente pazzesche. Però già qui c'è per esempio la tecnica di Sonny Rollins, per cui finita la ballad tu rimani da solo e monologhi per 3-4 minuti. È già qui l'idea che questa voce può rimanere da sola, tant'è vero che adesso non lo ascolteremo, ma Coleman Hawkins è un musicista profondamente sperimentale che nel 1945 ha registrato il primo pezzo per solo sassofono della storia, non della storia del jazz, della storia. Questo sulle enciclopedie che ci sono nelle migliori biblioteche non c'è scritto. Picasso si chiamava. È un pezzo per solo sassofono. Chi ha il mio libro I segreti del jazz lo può ascoltare, perché c'è. Chi non ce l'ha se lo trova, se lo cerca. Picasso è un pezzo per solo sassofono. È un volo senza rete. Sottintende una base armonica che non si sente, ed è un pezzo, fin dal titolo, volutamente modernista, astratto, e vi dà l'idea dell'audacia di Coleman Hawkins. Coleman Hawkins è stato un musicista che non ha mai smesso di sperimentare. Mentre Lester Young ha cambiato, come vedremo fra breve, stile, Hawkins invece è sempre stato un musicista più sperimentale, intanto perché ha aggiunto un elemento che nessun altro sassofonista aveva fino a quel momento e che adesso vorrei farvi ascoltare, vado rapidamente verso la fine, che è la drammaticità. Ma il dramma nel senso proprio quasi tragico. C'è una nota tragica nella musica di Hawkins a partire dalla metà degli anni 40 che era inesistente nel jazz fino a quel momento. Il jazz non è una musica tragica abituale, non nasce almeno come una musica tragica. È una musica da ballo, è una musica sessualmente, come dire, energizzante, è una musica che ti fa muovere, ti fa ballare, ti dà benessere. La nota tragica è rara nel jazz, o comunque drammatica. Direi quasi, se mi consentite l'aggettivo, michelangiolesca nella sua possenza. Possanza o potenza, non possenza non esiste in italiano. Vi faccio sentire un frammento di un lungo disco, la parte finale, l'assolo di Coleman Hawkins su The Man I Love a un tempo molto sostenuto, con Oscar Pettiford, Shelly Mann e il pianista Eddie Haywood. Si vede. Arriva, eh? Impressionante. Vorrei concludere, avevo moltissimi altri esempi, ma purtroppo è tardi e non abbiamo il tempo di vedere tutto. Intanto vi suggerisco, vi do dei suggerimenti di cose che magari avrei voluto farvi vedere o sentire e non sono in grado di farvi vedere. In particolare, per comprendere bene il Coleman Hawkins maturo, c'è uno straordinario pezzo in duo con Shelly Mann, il batterista Shelly Mann, che si sente anche qui, cui Hawkins prima suona il pianoforte, duetta con la batteria, e poi suona praticamente free con l'accompagnamento solamente della batteria. E il pezzo si intitola Me and Some Drums, io e un po' di batteria. È un disco della Impulse di Shelly Mann del 62. Poi c'è il famoso disco con Max Roach, dove lui suona un blues esatonale di una drammaticità pazzesca, un blues degli anni 20, 50 che si chiama Come On In. Sono tutti momenti di una carriera che fisicamente dagli anni 50 in poi tende al declino. Hawkins comincia a bere, diventa alcolizzato, finirà abbastanza male i suoi giorni, ma con delle zampate di leone formidabili, il cui culmine forse, se non ce l'avete, è fondamentale, è l'incontro col suo allievo Sonny Rollins, in cui l'allievo ha palesemente qualche difficoltà davanti a un Hawkins anziano, malandato, ma gigantesco. In particolare c'è questo appunto disco Sonny Meets Hawk, che è una cosa soverchiante, di una potenza veramente eccezionale. Lì si sente anche l'evoluzione dello stile di Hawkins attraverso Sonny Rollins e al tempo stesso la forza emotiva che rimane intatta, anzi ancora più drammatica, ancora più accesa, di Coleman Hawkins. 10 anni prima della morte di Hawkins era scomparso Lester Young, che aveva avuto alcuni disastri biografici drammatici. Quello che lo ferirà più in profondità sarà il servizio militare, in cui con il suo candore assoluto, perché era un naif assolutamente candido emotivamente, Lester Young, quando va a fare la visita militare nel 1944 per durante la guerra andare a fare militare, trova sul questionario: ha mai assunto droghe? Sì, cioè fumo la marijuana. Perché? Voi ci ridete, ma è finito in un campo di detenzione per neri nel sud degli Stati Uniti, ha subito una serie di angherie fisiche e psicologiche da cui è uscito distrutto. In più si è aggiunta la malattia, la sifilide, ma stilisticamente la sua musica è cambiata. Negli anni in cui Stan Getz cominciava a fare fortuna imitando i suoi dischi con Count Basie, come You Can Depend on Me, Young invece andava in un'altra direzione, di un suono più scuro, più denso, più pieno, emotivamente più fragile, ma al tempo stesso più radicato, come posso dire, più pesante. E vorrei concludere questa conferenza facendovi sentire una registrazione rara. Fin qui abbiamo sentito tutti i classici, che potete facilmente reperire. Questa è più rara. È Lester Young nel 1956 al Birdland, in una registrazione radiofonica. Lo sentirete suonare These Foolish Things, che è una canzone che lui suonava spesso in quegli anni, e la suona lì sul registro acuto, tiratissimo, leggerissimo. Laddove Hawkins avrebbe strozzato con drammaticità il suono, lui lo fa diventare quasi una specie di sospiro che sta per spezzarsi continuamente. È il segno di una intensità emotiva, di una fragilità emotiva, ma anche di un controllo supremo, di un controllo supremo del suo, come posso dire, della sua emotività, che è veramente impressionante. Lo schermo non ci sente. Intanto sentite questo suono più largo, pura melodia, è rallentato, è anche un problema muscolare della sifilide. Sì. pa pa pa, una scala semplicissima. Galleggiano, sono appoggiate. Things remind me of Lester Young and the Quintet. Anche il presentatore radiofonico si compiace, giustamente. Quindi da un lato la drammaticità, la potenza, lo scultorio con le Man Hawkins, dall'altro quest'anima fragile che è Lester Young, lo stesso strumento. E il jazz dà la possibilità quindi di esprimersi in maniera, come sentite, totalmente piena, libera, con lo stesso oggetto, creando mondi completamente diversi. Grazie.